versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo martedì 27 di gennaio, sono le 16.35 primi, 37 secondi, quindi diretta agli studi Radio 24 di Milano. Vi saluto e vi ringrazio come sempre, l'indirizzo la versione di Oscar @radio24.it e il numero di telefono per intervenire sull'argomento di oggi, che adesso andiamo subito a illustrarvi con l'ospite. Il telefono è 800 24 00 24, mentre il numero per inviare e inoltrare i vostri sms con le vostre opinioni 349 238 6666. Questa trasmissione nasce da una richiesta che molti ascoltatori mi hanno fatto questa richiesta all'inizio dell'anno, nei giorni intorno a 6, 7, l'8 gennaio. Poi quello che è avvenuto, cioè la strage a Parigi, Charlie Hebdo eccetera, ha larghissimamente attirato altrove l'attenzione del dibattito pubblico rispetto a quei giorni. Però adesso, avvicinandoci oramai, ci stiamo arrivando all'elezione del capo dello Stato e alle polemiche tra forze politiche e così via, qualcun altro, diversi di voi, mi hanno chiesto di tornare su questo argomento per capire di che cosa si tratta. Si tratta, ricordate all'inizio dell'anno l'esplosione di polemiche, si tratta di una delle norme contenute nello schema di decreto legislativo in attuazione della delega fiscale che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri la vigilia di Natale. Ed era in particolare la norma che ha fatto esplodere la polemica, la franchigia del 3%. Sulle frodi fiscali. Allora, si tratta di capire, molti di voi hanno chiesto di capire con un esperto, primo, se quella norma configurasse davvero quello che i giornali hanno scritto. Sapete che la polemica si è appuntata sull'ipotesi che si trattasse di un favore reso a qualcuno, molti hanno scritto Berlusconi. Secondo, molti chiedono, ma da quello che abbiamo capito il Ministero dell'Economia ha disconosciuto quella particolare norma, che era l'articolo 19 bis di quel decreto legislativo, che è il 74, e siccome l'ha disconosciuto il Ministero dell'Economia e lo hanno disconosciuto i più autorevoli membri della commissione tecnica che lavora ai temi della delega fiscale, non si è capito chi e come abbia messo quella norma. È anche vero che Renzi ha detto mi prendo io la responsabilità, però da quello che si è capito né i ministri né soprattutto il Ministero dell'Economia, lo stesso Padoan, sapevano o hanno detto parola di questa norma, tranne far capire dopo che si trattava di riparare al danno. Terzo, altri chiedono, ma il solo fatto che il Presidente del Consiglio abbia deciso poi di sospendere l'invio al Parlamento, il Parlamento nel caso dei decreti di attuazione di delega ha un parere consultivo, però è necessario, ma il solo fatto che abbia deciso di sospendere l'invio al Parlamento a dopo l'elezione del Capo dello Stato fa pensare, come hanno scritto molti giornali, che in realtà ci sia un'offa, una specie di esca per utilizzare anche questo argomento di questa particolare norma fiscale per indurre qualcuno, naturalmente il sospetto è sempre Berlusconi, a tenere un atteggiamento convergente rispetto al nome del capo dello Stato. Ecco, questi e altri interrogativi, però molti partivano dalla domanda fondamentale: spiegateci davvero se questa norma sta in piedi e qual è l'effetto, chi avvantaggia e se è compatibile con i principi della legge delega o va oltre, nel qual caso avrebbe un vizio di forma. Allora, per questo abbiamo deciso, passati un po' di giorni, visto che si entra oramai nel vivo del torneo parlamentare per la legge del capo dello Stato, di tornare su questa questione, che è sparita dai giornali, ma esiste, è sempre aperta. Allora, io mi limito a leggervi, prima di presentare l'ospite, il testo di cui stiamo parlando, che recitava e recita così. Dice che per i reati previsti dal presente decreto la punibilità è comunque esclusa quando l'importo delle imposte sui redditi evase non è superiore al 3% del reddito imponibile dichiarato o l'importo dell'imposta sul valore aggiunto evasa non è superiore al 3% dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata. eccetera, eccetera. Ecco, questo è il principio della franchigia di cui stiamo parlando. E ora l'ospite, come sapete, noi abbiamo un punto di riferimento quando si parla di questioni tecniche tributarie, il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario a giurisprudenza a Tor Vergata a Roma. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, professore. Grazie a voi. Allora, cominciamo dalla prima questione. La legge delega consentiva questa dannata norma che si applica anche ai reati di tipo doloso, cioè alle frodi fiscali, non a solo a quelli colpose, l'infedele dichiarazione per errore e così via? Il diritto come sta messo male, sono tutti dolosi, non c'è un reato colposo nelle manette agli evasori del 2000 nella legge 74, e poi è difficile, c'erano prima nell'omessa annotazione dei corrispettivi, diciamo, dei commercianti di al minuto, degli artigiani eccetera, quando c'erano quei reati di omessa annotazione, ma pure quelli erano dolosi, ma ti pare che uno non annota i corrispettivi, se mette in tasca i soldi e non li dichiara così per sbaglio, sai, siccome era passata una bella ragazza quel giorno mi sono dimenticato di annotare 30.000 euro, quindi sono tutti reati dolosi, e la franchigia c'era pure prima, solo che c'era quello che gli economisti chiamano un cap, cioè oltre un milione di euro era in ogni caso punibile. Con la norma che è stata letta prima oltre il milione di euro di imposta evasa. Oltre il milione di euro, non mi ricordo se era imponibile o era imposta, nell'articolo 3 del 74, cioè del decreto, c'era questa cosa, comunque oltre un milione, ed era pure nella delega. Certo. Cioè, dietro c'è la confusione. Io faccio tributario da una trentina d'anni, ma quando vedo che la luce si accende, apri il rubinetto, esce l'acqua, sono sempre felicemente sorpreso, perché facendo tributario, se tutta l'Italia fosse come tributario, noi avremmo i lupi mannari che passano per le strade. Questo ti dà l'idea della situazione di sfascio, di, perché quindi la sua opinione è che si tratti innanzitutto, poi vediamo, stato puro. È un pasticcio stato puro dovuto più che altro al fatto che è una selva il diritto tributario, per cui chi ci mette le mani rischia sempre grosso. No, ma non è una selva di norme, siccome i concetti non sono, siccome la nostra classe dirigente, la pubblica, la colpa è dei professori, la pubblica opinione, perché tributare è una materia un filino complessa. Un filino. Ma non è come c'è il diritto tributario, c'è di mezzo un po' di economia, un po' di contabilità aziendale, cioè la tassazione attraverso le aziende, quelle cose che scrivo sempre io, certo, un po' di stima amministrativa, per dove non arriva la contabilità, il famoso pasticcere, cioè deve andare a qualcuno e prendere un po' l'ordine di grandezza spannometricamente, no? Quindi è un po' più confuso. Se uno pensa di arrivarci attraverso la norma, che arriva il legislatore con espressione di razionalità universale e sistema tutto, finisce al manicomio. Cioè, allora, chiarissimo. Io però le leggo un'osservazione tecnica, autore Marco Brugnolo, proprio su questa franchigia di cui abbiamo letto il testo che tanto ha fatto esplodere le polemiche. Ed è una cosa che a me sembra, insomma, pertinente, perché illustra un paradosso, cioè dice che in realtà da questa norma ne discenderebbe che un comportamento, leggo, doloso e fraudolento che realizza un'evasione d'imposta di circa un milione di euro, punito con una semplice sanzione amministrativa, anche se raddoppiata rispetto alle misure edittali, appunto andrebbe incontro solo a una sanzione amministrativa. Mentre un altro comportamento che realizzasse un'evasione d'imposta inferiore a 1.000 euro, cioè non di un milione, ma 1.000 euro, che oltre a comportare nei confronti della società l'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste, eccetera eccetera, esporrebbe il suo legale rappresentante al rischio di condanna alla reclusione compresa tra 18 mesi e 6 anni, sequestro preventivo pari all'importo dell'imposta evasa. Allora, chi osserva che ci sono queste conseguenze paradossali tra 1000 euro ma e non è paradossale, c'è una logica, se la posso spiegare. No, io sono contrarissimo, No, ho capito, però la spieghi. Allora, c'è l'idea che sui grandi numeri, e parliamo sempre di contabilità di grandi aziende e quindi sui grandi numeri qualche cosa sfugge. È chiaro che nessuno froda a sua insaputa, quindi non si è riusciti a distinguere legislativamente quelle contestazioni, ricordate l'abuso del diritto, Dolce & Gabbana, i prezzi di trasferimento, l'antieconomicità, tutte quelle che io chiamo le contestazioni interpretative che spesso vengono mandate in procura, allora lì può essere che su una società che fattura 2 miliardi di euro, una di queste cose così di riqualificazione giuridica del dichiarato superi il 3% e nessuno se ne accorga, cioè passa inosservato, uno dice mamma mia non volevamo rubare niente, però abbiamo sforato la soglia, a nostra, ma non perché è una frode, cioè, se qualcuno si è messo lì, ha detto oh io devo mettermi in tasca i soldi, faccio una fattura falsa, questo è assurdo, cioè metti una franchigia assoluta come i famosi 1000 euro che servono alla cresta sui rimborsi spese dei dipendenti, no? Uno va in autobus, invece poi prende la ricevuta del taxi e ci scrive 50 euro così se li mette in tasca, andava in galera pure quello prima della riforma. Sì, sì. Quindi diciamo, ma la cifra deve essere assoluta per tutti, cioè sulle frodi, è che noi abbiamo considerato frode perché le procure ovviamente questo non lo sanno, gli uffici tributari per non saper né leggere né scrivere mandano tutto in procura, per questo dicevo che tributario è un inferno e spero che non prefiguri il futuro della società italiana, però in questa confusione qualche consulente magari catapultato all'ultimo momento ha detto ma perché non scrivete una cosa simile che ci mette al riparo? Qualche consulente magari esterno, perché non essendoci mai stato un punto di riferimento per la pubblica opinione in materia tributaria, che sapesse veramente gestire nella sostanza e non nelle normette i problemi, ognuno va dal professionista amico suo che gli capita. Ma quindi lei ci sta dicendo che qualcuno a Palazzo Chigi ha avuto un professionista amico suo che per così... No, qualcuno non amico suo, perché per carità di Dio, si fida, no? Sì. Così può essere chiunque, cioè, io ero amico di Enzo Visco, cioè, lo stimo tuttora anche se è tanto che non ci sentiamo. Allora per 3-4 anni qualche cosa che dicevo io la stava a sentire così in massima buona fede, cioè. Ma senza rendersi conto. Allora ci fermiamoci qua un 60 secondi per capire in realtà che cosa pensa però poi allora di questa sospensione che ha per dritto o per rovescio in realtà ha alimentato ancor più sospetti, se la spiegazione è quella con ogni probabilità di un errore di superficialità di cui ci ha dato una spiegazione, allora perché non dirlo subito, perché non chiarire tutto, perché non dire faremo una marcia indietro sì o no, oppure difenderlo se si sentono di difenderlo, però con delle spiegazioni che non abbiamo ascoltato. Tra 60 secondi intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati a occuparci di quella norma sulla franchigia della delega, del decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, per la quale è scattata la polemica, ma è per Tizio, per Caio, per Berlusconi, per leggere il capo dello Stato. Il professor Lupi vi ha spiegato che non è affatto in realtà, in linea di principio, se ho capito bene, tanto paradossale per l'amministrazione tributaria incassare una sanzione raddoppiata. E quando significa raddoppiata significa che a quel punto, siccome la sanzione pecuniaria è per la frode depenalizzata, però diventa 4 volte l'imposta evasa, piuttosto che anteporre a questo di vedere carcerato qualcuno che, qualche manager o imprenditore che ci è incappato. Ma detto tutto questo, perché non dirlo e non spiegare la norma e perché a quel punto tutto questo giallo su chi l'ha scritta, come e perché, secondo lei, professor Lupi? Perché ci si era percepito il pasticcio, ma può il Presidente del Consiglio dire scusate, abbiamo perso il controllo della situazione, ci è sfuggita di mano, adesso rimediamo in questo modo? Chiaramente non ci avevano le idee chiare su cosa fare in quel momento, sono tirati per la giacca su altre 300.000 questioni. Prendo tempo sperando che poi non se ne parli più, perché ritornarci in tempo reale quando stai sotto botta, che tutti i giornali ci ricamano sopra e non c'hai una struttura tecnica che sappia padroneggiare queste cose, rischi di fare peggio. Quindi hanno preso tempo, cioè probabilmente l'avrebbero, se non fosse stato il Presidente della Repubblica, si sarebbero inventati le cavallette, i terremoti, qualche altra cosa. No, però quello che pensa è che il suo giudizio è che tecnicamente al MEF nemmeno sono in grado in tempi stretti di intervenire quando ci sono pasticci. Ma ci mancherebbe altro, cioè la progettualità in questa materia non c'è mai stata, cioè è una materia fatta nel migliore dei casi di professionisti che quindi si occupano della pratica che gli capita sotto mano, ma la visione d'insieme che tentano di avere gli economisti in materia giuridica non ce l'ha nessuno, e meno che meno i tributaristi. Per questo dicevo che la materia è un inferno, capito? E quindi, a questo punto lei cosa si aspetta? Una marcia indietro? Marcia indietro, mi aspetto che la situazione sarà risolta togliendo la frode di cui all'articolo 3, perché lì devi avere fiducia nei PM, che tanto le cose le capiscono, cioè la distinzione fra uno che ha fatto un errore, non è un errore, queste sono tutte cose che si fanno apposta, ma non si nasconde la realtà, perché mi fanno ridere quelli che dicono errore. Io uso una certa interpretazione perché mi conviene, ma non è che nascondo, scrivo cifre a capocchia, interpongo teste di legno, cioè io uso un'interpretazione un po' spregiudicata. Allora queste cose non dovrebbero avere valenza penale. Quando uno maschera le carte, scrive cifre artefatte, allora togli una franchigia de minimis e poi dopo lo applichi a tutti, cioè de minimis possono essere 500.000 euro, ma insomma pure se sei la grande multinazionale non è che te scappano 500.000 euro, non scappano. Questo è, quindi questo è il principio. Per il resto lei dice però normali. Per il resto però lei dice affidarsi in realtà alla discrezionalità e alla valutazione della procura è pressoché inevitabile. Ma questa è una cosa clamorosa, si capisce, solo i tributaristi non le riescono a spiegare, la differenza fra l'evasione dovuta a falsa rappresentazione della realtà. Mi sono registrato 4 volte una fattura, la prima l'ho pagata al fornitore vero, la seconda agli amichetti miei per pagare le tangenti, questo se ne accorge anche un palo della luce di questa cosa qua rispetto all'interpretazione, i prezzi di trasferimento, il valore normale, l'abuso del diritto. Ma infatti fino al 2000 andava benone il sistema penale tributario, fino al 2000 per un fatto casuale andava benone perché c'era il riferimento ai fatti materiali. Ai fatti materiali, esatto. Erano i fatti materiali, nessuno sentiva problemi. Poi ci da fuori perché evidentemente l'omessa registrazione dei corrispettivi dei piccoli commercianti, ma faceva lavorare troppo le procure. Allora dice, ma queste sono cose, sono tante pratiche di piccolo importo. E di qui a quel punto la codificazione di fattispecie che è diventata sempre più casinistica. No, ma pure quella è stata, io ci ho parlato con Tinti, a quello che aveva messo le mani, ma dice, ma davvero noi sanzioniamo le interpretazioni in questo modo che dici tu? No, ma non era nostra intenzione, solo che ormai la legge era partita. Allora sentiamo brevemente alcuni ascoltatori che hanno degli interrogativi da rivolgere al professor Lupi. Cominciamo con Salvatore dalla provincia di Imperia, prego Salvatore. Buonasera. Buonasera. Io volevo esprimere l'opinione che quella franchigia del 3% è correttamente posta, perché nella tassazione in base al bilancio, escludo quindi i piccoli, si possono verificare delle situazioni per cui il risultato dell'esercizio è frutto di valutazioni, di quello stiamo parlando. Ho sentito che Lupi diceva, certo, però le valutazioni uno le fa, non è che poi le fa per errore, le fa perché sceglie una convenienza, ecco. No, perché sfido lei a misurare ad occhio una distanza, così si commette sempre un errore, sia soggettivo sia oggettivo. Certo. Voglio dire, se lei ha davanti a sé un panorama, è in grado di dire qual è la distanza tra lei e, per esempio, l'obelisco che ha di fronte? Preciso osservazione. Lei la valuta. Vede, Salvatore, lei sta ponendo una questione esattamente su un'opinione abbastanza contraria in questo esposta dal professor Lupi. Lupi, che replica al nostro ascoltatore? No, ma queste valutazioni già non sono penalmente, non avrebbero mai dovuto essere penalmente rilevanti, già avevano il paracadute, gliel'hanno confermato adesso, il problema sono i documenti falsi, cioè il 3% di franchigia si applica anche ai documenti, io mi stampo una fattura col Photoshop, mail che è intestata, che ne so, al fornitore di frutta secca, che non ne sa niente, me la stampo, me la registro in contabilità e me la pago. Questi sono falsi, non sono stime. Quindi qui non andava data. Ecco, qui non andava data. Comunque, sintesi estrema, lo so, trasmissione breve, sintesi estrema, non c'è una regia dietro né probabilmente amici in attesa, c'è la cosa peggiore, cioè casino e incapacità di porvi rimedio e di spiegare. Ohimè, continuate con la 24, appuntamento con me a domani.